Rock Way, l'onda del rock. Rock Way, l'onda del rock. Buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, qui siamo a Rock Wave in regia Michele Toson, alle costruzioni delle telecamere, a disposizione delle telecamere Roberto Valli, e stasera abbiamo un avvenimento molto importante. Cinque ragazze, quattro ragazze che suonano, uno che partecipa, vero Deborah, che partecipa solamente, è una novità assoluta per Rock Wave. Cinque ragazze sono praticamente Susan, hello, hello. Maria, hello, ciao. Mia, hello, e Amy. Ciao. E Deborah un po' nascosta. Ok. Come dunque, vi chiamate The Debutante Hour? Come vi siete conosciute? I met the Debutante Hour in an all-girl 16-piece accordion orchestra in New York, run by the fabulous Walter Kerr. Si sono conosciute in una orchestra di 16 ragazze in New York, tutte quante che suonano la fisarmonica, diretta da Walter Kerr. Tutte che suonano la fisarmonica, molto, è una novità assoluta. Dimmi. Sì, Mia, la, I'm speaking in Italian. Beh, Mia, dopo, cioè, abbiamo il traduttore. Sì, vai. The cello player. I met through the girls because they have been playing together and we all became friends. E Mia, la violoncellista, l'ha conosciuta tramite le altre due ragazze perché suonavano insieme. E cosa c'è il discorso? Deborah nella presentazione ha scritto che passate dalla New World al folk inglese. Ok? Dal New Order al folk inglese. English folk. Oh, no. sì, The Debutante Hour. Yeah. Sì. They're a cabaret pop from New York, really fantastic, doing folk-based music, Ukrainian songs, and with an edge, very interesting songs. Everyone is different and beautiful. Tra una musica folk e anche con inserti in ucraino, e in quanto Maria è d'origine ucraina. Origine ucraina. E fanno questo folk interessante, però sono tutte quante di base a New York. E la musica di New York che importanza ha avuto nella costruzione sonora di questo trio e poi un duo, eccetera? The music of New York, which importance had for the building this kind of group, this trio, this duo? Oh, which kind of music was influential in building this group? Yeah, yes, the music, yes. In New York that, yeah, inspired the music you? In New York. Ching Chong Song, they're friends of mine in Brooklyn, and music in New York. Or outside New York in your life. Oh, in my life? Oh, the blues, Motown, Otis Redding, Bruce Springsteen. Quindi ho capito, quindi, Otis Redding, quindi dal blues al folk al rock. Boss, e anche rock. Delle Ching Chang sono Ching Chang. Amiche loro. Sì, che fanno musica. Which kind of music? Ching Chang. It's also kind of cabaret punk music. È un tipo di cabaret punk music di New York, da Brooklyn. Ah, perfetto, ok, benissimo. Dimmi. Qualcosa interessante è Maria e Susan. Scrive le canzoni. So, insieme molto interessante perché tutti each song is different and each song is then Maria when they combine Susan, their forces it's Maria e Susan scrivono special. Le canzoni insieme ed è molto interessante perché quello che viene fuori ha sempre qualcosa di differente. And sometimes one writes a song and sometimes the other and the collaboration is really interesting. Qualche volta una scrive la canzone e le cantano insieme, o qualche volta l'altra scrive le canzoni. E questa collaborazione fa risultare una cosa molto interessante. E Maria, che praticamente è d'origine ucraina, quindi c'è la musica folk della sua terra, c'è qualcosa, ci sono qualche dentellato, qualche cosa che unisce la musica folk alla musica che fanno adesso. You have the origin Ukrainian, the folk music from Ukraine has something that is going into your music. Yeah, definitely. We actually sing some traditional folk Ukrainian songs, but we do it in a debutante style. So we have one Ukrainian song that's traditional, but then Susan sings in an English kind of almost blues way. In addition to the song, it's like a second voice. E loro cantano delle canzoni che alcune canzoni che sono tradizionalmente folk ucraino, folk ucraino, ma con degli inserti da Susan che è cantata in maniera blues, quindi con una voce blues. And also I would say the general the tones and the quality, the modes of Ukrainian traditional songs are influential when I write my songs too. Mm-hmm. Also. E tutta l'influenza che viene dalla musica ucraina e la influenza quando lei scrive le sue canzoni. E il violoncello cosa implica il violoncello di Maria? And cello of Mia, in which way is entering on your music? Just making it beautiful. Yeah. Well, Mia and I used to play classical music. We played Beethoven and Mozart together. So we've played a lot of serious chamber music, and then we've been experimenting, all of us, with bringing the cello into like popular music styles. So sometimes she plays like a bass, but sometimes she still plays like a classical cello. Maria e Mia suonavano insieme musica classica, quindi Beethoven, qualcosa del genere, e quindi musica da camera. Poi sono passate al rock. Non proprio, però. Sì, ed è interessante che qualche volta usano il tipo di musica classica, quindi con l'arco, e qualche volta invece usano come basso, quindi like in jazz or something. Ok. Allora adesso per iniziare la trasmissione torniamo un po' indietro, sentiamo un pezzo di Amy che abbiamo presentato 2 anni fa quando è venuta qua a suonare da noi, a presentare il suo disco. La traccia numero 2 hai scelto, Amy? Sì, una canzone chiama 1977 Swimming Lessons, di quando io sono una bambina in Chicago. Ho capito, benissimo, adesso la sentiamo assieme. Blu Radio Veneto Rock. Sound. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo pezzo di Amy che era accattivante, ci faceva muovere chiaramente. Ballare, si può dire? Piece of Amy that letting us to move like a dancer, we can say. Yes, definitely. It's about swimming, it's about running around a swimming pool and just jumping in when you're a kid. Sì, definitivamente, perché parla di quando da bambina correva intorno alla piscina e poi ci si tuffava dentro. Ok, benissimo. Questo abbiamo iniziato la trasmissione parlando del disco di Amy, di cui abbiamo presentato quasi totalmente l'anno scorso. Adesso parliamo del disco delle musiciste che sono venute a trovarci. Avete inciso qualcosa oggi, vero? Now we talk about your record, and he said that you just record something today. That's true. Right. Yeah. It's today. Today we recorded two songs. I don't even know the name of the studio. No Shoes. Yeah. At No Shoes Studio. In Padua. It was in wonderful. In Dolo. Yeah. E hanno registrato proprio oggi due canzoni allo studio No Shoes Record di Dolo. Benissimo. And it was wonderful. It was beautiful. Ed era bellissimo. Come l'idea di fare la band, l'idea di fare un pezzo, l'idea di costruire un pezzo, come nasce, come si sviluppa? The idea to build a song, how is burning? Born. Ice burn. No, ice burning. Okay. Oh, the idea. Ice burning. The idea to do a new song. How is it born? To song. A new song. How do you make a song? I don't know. Still, every time I do it, I get very afraid because I don't know where songs come from. So I have to sit down and then somehow it happens. I'm sorry, I can't be more specific than that. Susan dice che non lo sa veramente, perché arriva così. Sì, non sa da dove viene. E qualche volta è spaventata da questo, perché non sa da dove arrivano certe canzoni. Si siede, cerca di scrivere, però non sa da dove arriva veramente. I know that I like to write. I like to say things in songs that I haven't heard before. So if I can say something that I think is kind of interesting or funny, you know, conversationally, or and I express an idea, if I can express an idea that I think is truthful, then I like to do that. But gli piace scrivere di qualcosa che ha sentito intorno a sé. Quindi se riesce a specificare un'idea che ha sentito per creare una nuova canzone, gli piace questo. But some songs are just born. Ma alcune canzoni, dice Maria, sono semplicemente nate. We were just talking about it, actually. Stavano proprio parlando oggi di come certe volte certe canzoni nascono come un'esplosione. But even then, you know, like you don't know where it comes from, so you don't really know. Magica. Come ora non sappiamo da dove veniamo, quindi. Same place. È la stessa cosa. C'è un flash, si costruisce immediatamente, tac. Cioè qualcuno lo scrive in un pezzo di carta per catturare l'idea, qualcuno, non so, è in treno, qualcuno è in autobus, qualcuno camminando. Come succede? Sometimes you say that sometimes it happens that you are in the train and you're just writing a piece of paper or just talking or just. Sì, detto, sempre succede che. Succede così. Magari una frase che gli viene in mente e parte il tutto. Ok, adesso ascoltiamo allora il pezzo che avete inciso qualche ora fa qui a Dolo. Come lo possiamo definire musicalmente parlando? Lo potete definire in una certa maniera? Now we're listening a piece that you just record in Nosh's record. How you can define, if it's possible to define this piece? The songs we recorded today? Yeah. Mm-hmm. They're so different, the two songs. Yeah, very different. One is Susan's song. It's about zombies. L'ha scritto Susan questo pezzo qua? Le due canzoni sono molto differenti. Una l'ha scritta Susan ed è a proposito degli zombie. Ah, ok. And the other song is my song and it's a love song. E l'altra canzone è una canzone di Maria ed è una canzone d'amore. And I remember Maria telling me that this song that she wrote, this love song, which is so beautiful, is one of the songs that came really quickly for you, right? It was just born. Yeah. Questa appunto è una canzone di Cemi che Maria aveva precedentemente detto che è una di quelle canzoni che sono nate così d'improvviso. L'appena l'ha sentita e l'ha scritta. Cioè, ha percepito la musica, ha percepito il ritmo, ha percepito il suono, e poi hai scritto musica e testo, tutti e due. You write music and lyrics. Tutto assieme. I didn't write it, it was born. Tutto, no. Tutto il momento non l'ha propriamente scritta, è nata. È nata così, perfetto. Yeah, and it's so, the song is so, so simple but yet so deep at the same time. It really hits you right in the heart. Questa canzone è veramente semplice, ma allo stesso tempo molto profonda e colpisce veramente al cuore all'istante. And last night they sang it for someone's 35th anniversary and it was just moved me to tears. E ieri sera l'hanno proprio suonata per un anniversario di matrimonio, 35 anni di matrimonio. E bello anniversario, decisamente. E mi ha detto che si è sentita emozionata quasi fino alle lacrime. Bene, ok. Adesso l'ascoltiamo e poi ne parliamo ancora, ok? Now we can listen. Sure. Blu Radio Veneto Rock. Sweet mess of us reminds me of that frog. sure love it though. If maybe someday you'd be Onda del Rock. Ok, 22:37, 53 secondi, 54 in questo momento. Ricordiamo il nostro sito, diretta rockway.altervista.org. Stasera ci possono vedere e sentire, cioè vedere le nostre quattro musiciste e sentire quelle che suonano. E che titolo aveva questo pezzo? Il nostro produttore, come ti chiami? Claudio. Claudio, che titolo aveva il pezzo? L'ultimo abbiamo sentito. Sì, quello, quel brano che abbiamo sentito in questo momento. The last song we listened, which the title of the last song was? It's called Croak, Hiss and Sputter. Croak, Hiss and Sputter. Hard to translate. Croak, Hiss and Sputter. Perfetto, perfetto, perfetto. Musicalmente lo possiamo definire, ci avvicina a certe tematiche popolari, ci sono i fiati, eccetera, e così. Musically, we can say that is closer to the theme that was popular. Okay. American popular song. American popular. Sì, canzoni popolari americane. Però intervallate da musica non propriamente popolare, cioè c'è una specie di incastro tra la musica popolare e la musica non popolare. Between, we can say that there is some not popular music that is together. Okay. Not popular. Okay, yeah, I mean, there's a lot of words, which is sometimes not that popular. Well, because it's like, you know, it's hard to understand. It's hard to listen. Yeah. Ci sono molte parole dentro che non sono propriamente popolari e sono difficili da pensare e anche da dire. Anche musicalmente si parte dalla musica popolare e poi ci si allarga altri settori, altri intenti. Altre costruzioni sonore, sei d'accordo? Sei d'accordo? Musically is like a departure from the popular music and after start to become something different, like just si allarga. A source, so be wide. Mm. Right. Well, we often say our music is based in American roots, like country or blues, and or like in this case, I think of it as sort of like Tin Pan Alley song, like 1920s American classical popular song. Loro spesso si definiscono la loro musica che, come una musica che parte dalle radici della musica popolare americana e dal blues, dal folk, country. Mm-hmm. E poi si sviluppa verso altre tematiche. Chiaramente. Quindi la musica popolare, country, folk, blues, rock, anche, hai citato mm-hmm. Springsteen prima, no? Okay. Springsteen. Quale periodo di Springsteen tu ami particolarmente? Which period of Springsteen you love mainly? Particularly. Okay. Earlier. Mm-hmm. Me too. Stuff. The really early, like Nebraska is a great. Ah, Nebraska. Quindi folk music proprio. Very early music. Nebraska. Okay. For me. Il periodo iniziale. Iniziale. No, quello più rockettaro, no? No. Yeah, not so much the late. I don't speak Italian. Not so much the later. The most in rock. Non Born in USA, no? I like it. So. Ah, I like Born in USA. Gli piace pure, sì, Born in USA. Anche se. E new album di Springsteen vi piace? New album? The new album of Springsteen, you like it? I haven't heard it. I haven't listened to it. Non l'hai sentito? Non l'hanno ancora sentito. Peccato. Sorry. Non l'hai ancora sentito. Sorry, boss. Ok. Allora cominciamo. Chiedono scusa a Bruce Springsteen per questo. Okay, perfetto. Io lo trovo forse più bello, l'album più pop che lui ha scritto. For him is the album more pop album that he wrote. Mm. A mio parere, chiaramente. So maybe I would in like his opinion. It. Mm. Penso così. Siete pronte? Are ready? Yes. Ok, che pezzo fate sentire adesso? Ora suoneranno una delle canzoni che hanno registrato oggi. Sì. Ed è una canzone d'amore che si chiama For Myself. Ed è la canzone che appunto hanno suonato ieri sera a questo anniversario di matrimonio. Ok. È una canzone d'amore che parla di tutte le cose che sono per loro stesse, che però le rifiutano in quanto alla fine si va a dire ok, tutto questo non è per me stesso ma è per te, perché ti amo. Perfetto, allora partiamo fra qualche secondo. Blu Radio Veneto Rock. L'onda del rock. Ok, adesso chiaramente ci dobbiamo sistemare. Adesso si sistemano le ragazze. Abbiamo fatto questo pezzo molto accorato, molto di un certo trasporto. E Maria suonava la fisarmonica mentre Susan cantava. Ok? E l'avete scritto da poco tempo questo pezzo? È una novità assoluta? L'avete inciso da poco, però era già nel cassetto da un po' di tempo, di giorni, di periodo, un periodo. Cioè era già pronto da un po' di tempo questo pezzo. The last piece was you just record, but was wrote a lot of time ago, or was it something recent? That song was written probably 4 months ago or so. Not very long ago, about 4 months ago. Questa canzone è stata scritta non troppo tempo fa, 4 mesi fa. Bene, quindi è abbastanza recente, insomma, praticamente. Pretty recent. Yeah. L'avete già suonata in qualche altra occasione, oltre a ieri sera, chiaramente? You already played this song in other places, other than yesterday? Lots of places. We've been touring all over. We started in UK, and then we went to... where did we go? We went to Poland, and Prague, we went to Prague, Berlin, Wetzlar, and then here, and we'll be playing that song tomorrow night. Yes, at Il Kiosco tomorrow. Yeah, tomorrow night. So that song has been played all over, mm-hmm. And in New York, it has gotten around. Questa canzone, sì, effettivamente è stata cantata molte volte prima di essere incisa. Perché è stata cantata nel loro tour europeo. Sì, anche a Berlino, ho capito. Sì, okay. Che è ancora in corso. Hanno fatto un tour europeo, possiamo citare questo tour che hanno fatto? Sì, e sono partite dalla Gran Bretagna. C'era anche l'EMI insieme? No. No, solo loro tre. Solo le Debutant Hour. Ok. E la Gran Bretagna, quindi Londra, also Edinburgh. Edinburgh, yeah. And Brighton. Also. Brighton. Brighton. Edimburgo, Londra. Poi sono passate alla Polonia, e Praga, Berlino. E Wetzlar, che è una città vicino a Francoforte, e domani saranno qui a Padova, Il Chiosco. Fanno un concerto domani sera? Sì. Quindi tutta l'Europa è arrivata anche a Padova. E poi partiranno per Ginevra, la Svizzera. Andranno in Svizzera. Per finire poi il tour. Andranno negli Stati Uniti a suonare ancora, chiaramente. Yes. You went. You will go in the United States to play. Yes. Yes. Yeah. We have more shows in New York, in Brooklyn. Brooklyn. Mm-hmm. Okay. Sì, loro partiranno per gli Stati Uniti e avranno più show appunto in New York e Brooklyn. E puoi chiedere che qual è stata l'accoglienza europea? Sono state soddisfatte dell'accoglienza europea? Del pubblico europeo. How you felt the audience in Europe? You were non so come dire accoglienza. Accepted, like the feeling with the people. Accepted. I felt they were very kind. The European people with us, with them. In with Poland, you. They were very quiet. Yeah. They were very polite. Hanno detto che stata accolta veramente in maniera molto gentile e in Polonia sono state molto calme, quiete, rilassate, non proprio, ma quiete. Mentre in Gran Bretagna sono stato un po' più vivaci, in Scozia lo stesso. But I thought they were kind too, because they let us play for 2 hours. It's in Warsaw. True. Yeah. Mm-hmm. And in Krakow. Yeah. We played for a very long time in Poland, but they were very quiet. Okay. Sì, anche se erano quieti, hanno suonato comunque per molto tempo, loro stavano lì molto gentili ad ascoltare. Benissimo. Adesso facciamo un altro pezzo a turni invariati. Maria suona la batteria e Susa la fisarmonica, sì, mi pare. Okay? Quindi un altro pezzo che si intitola Sunday on the Trailer. Sunday. E sempre Pia al violoncello. In the Trailer. Yeah. E sempre Mia al violoncello, Susa alla fisarmonica e Maria alla batteria. In questo caso un po' particolare. Una batteria un po' particolare perché hanno dimenticato i bastoncini a casa. Hanno dimenticato i bastoncini e... Beh, falli vedere i bastoncini che hai. Hanno dimenticato i bastoncini allo studio di registrazione oggi e adesso stanno usando una batteria, un tamburo. E solo con due spazzoline. Scusa, nel jazz fare le spazzole, fanno quel suono con del spazio, con molto feeling. Non avendo le spazzole vere, perché l'hanno dimenticato. Abbiamo in studio, usato quelle. Stanno utilizzando le spazzoline, quelle per pulire la casa. Esattamente. Di plastica. Servono sempre. Servono sempre. Ok, partiamo fra qualche secondo. Blu Radio Veneto Rock. We'll be right back. Rock Wave, l'onda del rock. Ladies and gentlemen, the debutant hour. Okay. Oh. Oh, wow. You're kidding. Okay. Wow. Really here in the same room? Benissimo. In Italy? Proprio qui nella stessa stanza in Italia. How did they ever get here with all their shoes? No shoes. Un suono particolarissimo era quello del violoncello, bellissimo secondo me. Il violoncello è un suono molto particolare, molto dark in alcuni momenti. Cosa dici, Claudio, tu che fai il traduttore e anche l'esperto, tra parentesi? No, io non sono per niente esperto, non so nulla di musica. Però sono solo il traduttore in questo modo. Poi fai la traduzione a mia, allora, che ho detto io, del violoncello, che è un suono quasi dark, molto particolare, molto introspettivo. Sì, il violoncello è... The cello has a sound in this piece a little dark, so hidden deeply inside. Atmosfera. Yes. Beh, molta atmosfera, crea un certo feeling, un suono particolarissimo. And I think you were talking earlier about how this was like pop music, but diverges a bit from pop music, and I think the instrumentation of the songs is where it kind of diverges by using the cello, and you know, obviously the accordion. Some pop music you don't hear it, and so the dark part of the cello adds a different dimension to their pop music that is non-traditional in a way to popular music in America, although it's changing. But there's a lot to say. Good luck. Maybe just like the cello adds a different dimension to them. Il violoncello aggiunge dimensioni differenti che a volte sono dark e che si discostano un po' da quello che tradizionalmente è visto come la canzone popolare americana. Cioè, certo, ma io molti musicisti rock, decisamente qualche gruppo rock famoso usa il violoncello. Il violoncello ha un certo suono rock, che dà un certo senso, una certa atmosfera. A lot of musicians, ti entri dentro con l'atmosfera. Rock musicians are using the cello to create an atmosphere, so you can enter in that atmosphere. Affascina, ok, affascina, ok. Amy, sei pronta? Sì. Sei pronta? Cosa ci fai sentire, Amy, adesso? Sì. Well, I want to start with a song actually commissioned by Susan, really, because she runs something in New York called the Bushwick Book Club, where she invites songwriters to write songs based on a book. And ti adesso traduce, sì. Okay. Susan, questa canzone è in qualche modo è stata. È dal vivo, dal vivo, assolutamente dal vivo. Dimmi, dai. Questa canzone è stata in qualche modo commissionata da Susan, in quanto Susan ha creato a New York un club. The name of the club is the Bushwick the Bushwick Book Club. Bushwick is a part of Brooklyn. Ah. A very special part. Sì, yeah. Perché Bushwick è una parte molto speciale di Brooklyn. E Deborah fa la fotografa adesso, sta vedendo tutto live. Cioè Deborah Michele anche lui sta fotografando, vai. E appunto questo club creato da Susan riunisce una volta al mese gli artisti da varie parti di New York, artisti di che genere musicale, d'avanguardia, non d'avanguardia, di tutti i tipi, ok, di qualsiasi tipo, e le riunisce attorno a una tematica che di volta in volta cambia e ogni mese è un libro diverso. Quindi okay. il tema del mese è un libro, e questa canzone che è messa per suonare è stato ispirato da quella serata che era appunto dedicata al libro The Giant Peach, James and the Giant Peach. È un libro scritto da Roald Dahl, che è lo scrittore che ha scritto anche La fabbrica di cioccolato. Ah, ho capito, sì. Sì, so grazie a Susan. Per questa canzone. And to create this song, I read a book that Roald Dahl wrote about his childhood, and also read James and the Giant Peach. And in his childhood, he went far away from his parents, and he would sleep facing his parents because he missed them so much. Questa canzone è stata ispirata anche da un libro sempre dello stesso autore, che parla della sua infanzia, perché aveva i genitori molto distanti da lui e quindi perché gli mancavano, dormiva girato nella direzione dei loro genitori, okay, dei suoi genitori, anche se erano molto distanti. And in James and the Giant Peach, his parents were eaten by a rhinoceros, so in this song, when he's facing towards his parents, he's facing up towards heaven. E nella stessa, nello stesso modo, James, nel libro James and the Giant Peach, ha perso i genitori perché erano stati mangiati da un rinoceronte. Ah. E quindi allo stesso modo anche James si gira nella direzione dei genitori, cioè verso il cielo, verso il paradiso. Ok, are you ready? Sì. Ok, fra qualche secondo partiamo. Blu Radio Veneto Rock. Rests around me like an extra layer of skin, and the space between heaven and here is growing thin. I turn off of my side until my back is to the bed. All that inside looking starts to look above instead. Hundreds of memories I tried so hard to find are now right there. If I keep myself up, I even see them as a pair. Even stop to breathe, and all the quiet makes a kiss. If I want anything in the whole world, it is this. I am facing the way. I am facing the way. I am facing the way. I am facing the way. To crack, I'll be able to tell for sure if they can see me back. Though I know what they'd say, hold on too tight, you'll let it slip. That it's better to sleep and dreaming drift on to my hip. Thank you. Sono le 23 e 4 minuti. Rockway, l'onda del rock. Ok, ci siamo. E se adesso Claudio sta facendovi capire cosa ho in mente io, in mente, e dobbiamo fare, sono le 23.04 e di testa si sono, ma Michele mi dice giustamente sono malato di testa, può darsi, ma musicalmente sì. E stiamo facendo, provando, facciamo il gioco, il famoso gioco, i 5 dischi da portare su un'isola deserta. Siccome siamo in tanti stasera, facciamo i 3 dischi da portare su un'isola deserta. Non è giusto. Non è giusto, Deborah mi dice non è giusto. 5, ma niente da fare, 5 dischi da portare in un'isola deserta. Adesso Claudio traduce, 5 dischi a scelta, non si può copiare, questa è la ferrea regola di Rock Wave. Vai, Claudio. Ok, this is a game that is from a Rock Wave, because the director says that he's crazy. Okay. It's the game that he is usually wanted to make with everyone. Now we have to decide the 5 album that you can bring with you in a desert island. Okay. And it's forbidden to copy from each other. So it's a 5 album each. Okay. Beep, beep, beep, beep. Scaduto il tempo. Chi comincia? Chi comincia per prima? Who wants to start first? Vuoi cominciare? Comincia. Ok, vieni avanti al microfono allora. Avvicinati. Mia. Paul Simon, Graceland. Graceland perché? For? Just why? Makes me happy and it's interesting, I guess. Perché la fa rendere felice e non, è molto interessante. E non perché gli album precedenti di Simon & Garfunkel, quelli no, perché? Why not the earlier like Paul album? Paul Simon. Ah, perché ami Paul Simon. Yeah. Ok. Number two? Stevie Wonder. Quale? Inner Visions. The masterpiece. The masterpiece. Yes, the masterpiece. My masterpiece. Un capolavoro. And then I'll. Can I just do 3? Five is. Puoi dirne 3 perché 5 sono troppi. Non ti ricordi? 5 non ce la fai. Yeah. No, I don't have a. No, I don't have a third one right now. Non ti ricordi? Non ha ancora il terzo. Allora facciamo il giro e poi ritorniamo a Mia, pardon. Tocca so a te. Start the round and Maria? No, I'm not ready. I can go. Non è pronta neanche Maria. I can go, I'm ready. Amy invece è pronta. Amy è pronta. L'anno scorso non pronti, ma adesso... Adesso hai capito il giochetto. Sì. Ok, bye. Kate Bush first, The Dreaming. My favorite album ever. The Dreaming of Kate Bush. Come mai Kate Bush? Why Kate Bush? Oh, I think she's so creative. I've been reading her biography this week, actually. She's so... I feel connected to her because she writes songs about things that she just sees in life that are special to her. Sì, and... sente molto connessa a Kate Bush. Ecco, senti? No. Oh yeah, thank you. Okay. But it's funny because when I first heard Kate Bush, I really didn't like her, and now she's completely my favorite for her imagination. Ed è strano perché la prima volta che ho ascoltato Kate Bush non l'avevo più tanto impressionata, invece adesso è la prima in assoluto cantante che la sta influenzando. Adesso sta facendo almeno l'ultimo album che ha fatto, l'album di 2 anni fa, un album molto particolare. Non era Kate Bush all'inizio di carriera, era più avanzata musicalmente. Molto raffinata, molto raffinata. Ariel. 2 years ago was not the same Kate Bush always, but it was more fine. Yeah, fine meaning like more softer. Raffinata. Refined. Refined. Yeah, I think that it was to me it had a more airy quality. Like it's so many songs are about paintings, so. The song does have a very watercolor. The album has a very watercolor sound. Molte canzoni sembrano come dipinte e molte canzoni le immagina come ad acquerello. Especially side B, the second half. Number two? Specialmente il secondo lato. Del certo. Number two, I would say the Goldberg Variations by Bach. If I had to be on a desert island. Bach's Goldberg Variations for cello, actually violoncello. Okay, okay. It just makes me feel. Quello è fuori della classifica, quello. Sì. Goldberg, which are the ones for cello? The Baccello Suite. Oh, Baccello Suite. Scusa, oh. I need to okay. bring the album with me to read it. Quindi un CD di Bach. Un CD di Bach. Noi concerti per andare burbisi. Yeah, sì. No? I've been listening to Barbara Morgenstern from Germany. E stavo ascoltando anche molto Barbara Morgenstern dalla Germania. And my favorite album of hers is The Grass Is Always Greener, two albums ago. E il suo favorito di Barbara Morgenstern era The Grass. The Grass Is Always Greener. The Grass Is Always Greener. Yeah. Di due anni fa. And Hannah Huckleberg, Rika Strass. Too hard to train. It does. It's a. I think she's from Norway, so I think it must be somewhere in Norway. Rika Strass, 69. Questa artista che si chiama? Rika Strass. I'm saying that wrong. 69, che, I think. Che dei paesi nordici, quindi yeah. È difficile anche da pronunciare. Sì. And cinque. Almeno un altro, poi abbiamo finito. The next one. Oh, I didn't have a fifth one. Maybe Keith Jarrett. Ah, Colin quale? Concerts. The Colin concert. Yeah, just because it's so, it fills me with joy. Oh no! Well, yes, can I have six? Oh no, it's too late. No, dimmi cosa vuoi dire. Antonio Carlos Jobim, Acqua di Monaco, my favorite. Okay. Maria, tocca a te adesso. I can't think of anything. I would take my iPod. Non puoi pensare a molto. Put it on shuffle. Yeah. They record it all day. I would take my 30 gig iPod and I would put it on shuffle. Vorrebbe prendere il suo iPod da 30 giga e metterlo con canzoni casuali. I can't think of any music right now. The only album I can think of that I would definitely take, and there are a million albums that I should be able to think of. Non riesce a pensare a niente in questo momento. Qualche canzone, qualche flash. Ha milioni di album in testa. Però se dovesse pensare un album, sarebbe. Is the last Beatles album, which I've just rediscovered recently. I just started listening to it. L'ultimo album dei Beatles che ho riscoperto da poco. Let it be. No, Abbey Road. Ah, Abbey Road. Yeah. Ok, Abbey Road. Quindi il famoso Abbey Road. And, come mai hai scoperto solo adesso? It's just a great album. I listened to it when I was like 12 and now I listened to it 2 weeks ago I cried at the end. Wow. È un grande album che ho ascoltato quando aveva 12 anni e l'ha riascoltato, quindi l'ha riscoperto una settimana fa. Ah, però. E si è sentita di piangere. Ah, ok. Is that okay? And then my iPod. E il suo iPod. È il suo. Vai. It's a cheating answer. Susan, tocca a te, dai. All right. Okay, A, I'm bad at games. So I don't like games. Punto uno, non sono brava ai giochi. No, ma non è un gioco, questo qua è una è ancora nella memoria nei dischi migliori più amati. It's not really like a game, it's just to go in the memory. So I'm not gonna lose, lose this game. No, right. You're not losing the game. Right. Ha chiesto se stava perdendo il gioco. I lost, I cheated anyway. Well, e Maria ha detto che comunque lei ha truccato. Sì. One of my favorite albums is Ella Fitzgerald singing Duke Ellington. A songbook number 2. Beh, ok. Yeah, it was one of the first albums I received. Uno dei suoi album preferiti è stato quello di Ella Fitzgerald. Yeah, I was in high school and my boyfriend at the time, he was my first boyfriend, my first real boyfriend. Era alle scuole superiori e il suo ragazzo dell'epoca, che era il primo ragazzo. And he used to work at Tower Records. At the record store Tower Records. Ah, e lavorava a Tower Records. Sì, con il famoso negozio di dischi. And he stole it for me. E lui l'ha rubato per lei. Ah, ho capito. And so I listened to it again and again and again and again. E so lei se l'ha ascoltato molte volte. Yeah. So that, and my favorite rock band is Sparks. Ah, gli Sparks? Sparks, yeah. Okay. So, Kimono My Eyes? Kimono My Eyes. Okay, okay. Or the one that has Bon Voyage. Kimono My Eyes, sai? And, Sparks, Kimono My Eyes. No. Yeah, Angst in My Pants. I love Angst. Adesso lo cerca. Angst in My Pants, you know, Angst in My Pants. I've got Angst in My Pants. It's great. So poi? That and, you know, some I would have to pick a compilation, a Motown compilation. A Motown compilation? You know, Al Green. Eh? Yeah, Sam Cooke. Rolling Stones, no? No, Rolling. I never listened to Rolling Stones. No, mai ascoltato. Non ho mai sentito i Rolling Stones. Yeah. No. But there's a lot that I haven't listened to. I'm very ignorant about rock music. Ci sono molte canzoni che non ho mai ascoltato perché si dice molto ignorante a proposito di musica rock. No. Yeah, really. Fleetwood Mac, or is that, that Fleetwood one? Mac? Yeah, I never Romulus. Listened to them. Romulus? No, no, Romulus. Ah. But that's it. Non che piace. Sorry. Non ti piacciono i Fleetwood Mac? I don't know Fleetwood Mac. I don't know. No. Which one are they? Si sono ricostituiti adesso. Stevie Nicks. They refounded again. Oh, yeah, yeah. That's great. Grandioso. Eppure la realtà, si sono ricostituiti come tante altre band. Is it true because they refounded as a lot of other bands? Okay. Abbiamo finito il giro e la... ti ricordi? One more. Adesso la mia si avvicina, gli ultimi dischi che mancavano, la mia. She stole mine. Which one? The cello suite. But I said it, the name yeah. wrong, so you can use it. Mi ha detto che mi ha rubato la sua idea per il disco Bach cello suite. But I said the name wrong, okay. So it doesn't count. Okay, ho capito. Played by Casals, yeah, by Pablo Casals. Ah, Pablo Casals, yep. Okay. And also Brahms' Second Symphony. La seconda sinfonia di Brahms. Brahms. Okay, very well. Siete pronti per suonare adesso? Cosa suonate? Are you ready to play again? Yeah, of course! We're all sì, right. Naturalmente, sempre, sempre pronte. Pronte. What should we play? Are we doing Planner? You want to do a... Why don't you go with three voices? Maybe Galax? Galax? Or Be My Baby? We've been playing some slow songs. Oh, yeah, that's true. Be My Baby? Let's do Planner. Planner? Okay. Okay, because adesso suonano una canzone. Which song now? This song is called Be My Baby. Okay. We're going to do an American classic song. È un classico americano, praticamente. Sì. It's a cover. Adesso è una cover. È una cover di? By? Oh, God. Who's it by? Oh. Who did that? The Ronettes did it, right? The Ronettes, that's right. It's the Ronettes. I don't know who wrote it. Okay, yeah, okay. But they didn't write it, they just sang it. They made it. Ma l'hanno solo cantata, quindi non l'hanno scritta. You know this song. Okay. È una canzone molto famosa, yeah. Popolare americana. Ok, fra pochi secondi partiamo. Blu Radio Veneto Rock. I had the chance. Rock Wave, l'onda del rock. Cappella. Ok, adesso facciamo il solito giochetto che purtroppo io, che sono il conduttore, faccio ai nostri musicisti. Rifate il pezzo a cappella, quel finale bellissimo che avete fatto qualche secondo fa. You can make the last piece in... Ok? Last section. When you sing together, just a cappella. A cappella? Cioè, solo con voce, ok? Only voice. Just the end? Yeah. Sì. Just the end, ready? Without the instruments, only with the voice. 1, 2, 3, 4... Be my baby, my one and only baby. Be my baby now. Whoa, oh, oh, oh. Bravissime, bravissime. Questo è un pezzo famosissimo che in italiano è stato tradotto un sacco di volte. Un pezzo famosissimo degli anni 60, una hit single degli anni 60. Is it really famous hit of the 60s? It was translated also in Italian a lot. This one? Oh, good. We should have learned it in Italian. Oh, God. How do you say be my baby in Italian? Bellissimo. Dovrebbero tradurlo in italiano, come si dice? Be my baby. Sì, la mia baby. Baby, la mia ragazza, la mia baby, insomma. Bellissimo. Sì, baby. Come mai questo pezzo così famoso degli anni 60, fatto da voi in maniera così accattivante, divertente? How why this 60 hit made from you in this fun way? It's because of my boyfriend. He had an idea. He wanted many different New York bands to remake this song, and he wanted to use it on a CD that he's making. And perché so il suo ragazzo ha voluto molte band americane e cantare le canzoni vecchie e classici praticamente. He likes the John Lennon version of this song. He likes the John Lennon also did a version of this song, and Tom likes that version too, and that's why he thought of that idea. E sorry, it's not more interesting. It's very interesting. Perché il suo ragazzo Tom gli piace molto la versione fatta da The Version of John Lennon, what? John Lennon's version of this song. Oh yeah. John Lennon. Mm-hmm. E appunto vorrebbe che molti musicisti americani si mettessero insieme per cantare le vecchie canzoni. Le canzoni, vecchi hit. Vecchi hit. Perché è un disco appunto solo di queste musiche. E c'è stato Louis Stevens, mi pare, un musicista americano, che ha ripreso un sacco di canzoni degli anni 60 e li ha rivedute e corrette da parte sua. Non so se lo conoscete, un musicista americano abbastanza di nicchia, però sì. There was another musician Sushant Stevens, esatto, quello là. Lo conosci, Sushant Stevens, that, che ha fatto bring a lot of 60s song and remake in his own way. Really? Quello che ha fatto un album, ogni album dedicato a uno stato americano. He made he made a lot of lei album, mi lo conosce, lei mi lo conosce, they had to American State. But he's only on like the third. He's only one. On the yeah. But he's done three. Yeah. Ah. he's beginning. Just. Gli sta ancora facendo. Sì, esatto. E non è ancora finito. Era il terzo stato. E poi ha dedicato due anni fa. One is my state, so I'm happy. Yeah. Ma uno è lo stato di Amy, quindi ero contenta. Ma quale stato? E ha dedicato cinque dischi, cinque album a Natale. È uscito due anni fa. Cinque album, cinque a Natale. No, oh, Christmas albums. La parte di in the Christmas five albums. Five, wow. Was released five albums. He's very religious. He likes Christmas. Wow. He likes Christmas. Lui è molto religioso. He likes Christmas. Sì, ma canzoni un po' particolari, non prettamente tradizionali, non tutte tradizionali. Not really all traditional songs. Amy, tocca a te adesso, cosa ci fai suonare? So it's your turn, what do you want to play? Okay, I'd like to do a song inspired by Italy. Vorrebbe mi piacerebbe suonare una canzone ispirata dall'Italia. And it's a song about lucertola. È una canzone a proposito delle lucertole. Lucertole. And che adesso è d'estate, vengono fuori spesso e volentieri. You know, it's in summer they coming. Yes, and one time last summer when I was here, I was running and almost stepped on so many that I had to write a song about. Che l'anno scorso quando era qui è quasi inceppata. Su molte lucertole. And it makes me Ma dove? Qua a Padova? Sì, sì. Padova? Sì, qua a Padova. E quindi hai sentito il bisogno di scrivere una canzone a proposito. It filled me with a sense of imbalance because we don't have lucertola in. Sì, ti faccio fare perdere l'equilibrio per dire. Sì. il senso di non essere bilanciata. So, quickly, my song perché is... loro non hanno le lucertole. Ah, non hanno le lucertole. Sì. Non è così comune avere le lucertole a New York. And this song is comparing Italian floor tiles embossed with lucertola. So there's designs of lucertola on Italian floor tiles. L'idea veniva da le sagome delle lucertole e nelle piastrelle. With the tile puzzles, you move the squares with your hands to make a design. Quindi immaginava il gioco quello dei, mi è chiamato gioco di 15 che si muovono le piastrelle, piastrelle, ho capito. Di plastica per sì, creare un disegno. E lei immaginava appunto le piastrelle che si muovevano, che erano appunto le lucertole. Ah, ho capito, ho capito. And at the end there's an image of myself, so I see this untrustworthiness in myself. Okay, it's a long explanation. E alla fine vede appunto l'immagine che si componeva con queste piastrelle, e che era l'immagine di se stessa. Quindi si vedeva la sua precarietà in queste. Sì, grazie. Suo equilibrio un po' precario. Sì, sì, sì. You'll okay. Feel, you'll know when you... Benissimo, allora partiamo fra qualche secondo. Blu Radio Veneto Rock. I know you get more out of Arnie's touching than out of anything you pay. Lucertola, marbling every household, artisanal and always moving. Excurvaceous, reptilian embosses, squares that click into trysts to cover the losses. Tile puzzle with a design so discreet, this floor isn't made for feet. So when our limbs skim pseudo-hearse to hymns casually, only as a lesson, in minutia throws all of my hubris slows, I am above my own impression. L'onda del rock. Ladies and gentlemen, Hemi Con. Thanks. Ok, abbiamo sentito un pezzo quasi di musica contemporanea, Hemi. So. Yeah. We just listened a piece that was nearly a contemporary music. Oh, cool. Yeah, I've been working on a string quartet for a group in New York, and that piece they wanted a Latin influence, so I don't know, somehow this style of music, playing arpeggiated chords, has come into my playing. Ha lavorato per un quartetto d'archi in New York e questo l'ha influenzata e ci sono molti accordi strani in questo pezzo. E adesso parliamo del disco che stai registrando, Amy. And now we talk about the your album that you're recording. That I'm starting. Cool. Yeah. I'm very excited. I have at this point 9 songs ready to record and with my band in New York, and they're all arranged for my 7-piece band. È molto eccitata a proposito perché ha 9 canzoni già scritte. Sono già pronte. Con la sua band composta da 9 pezzi. Yeah. Actually, sometimes 8. Sometimes a girl who is in the accordion orchestra with us plays the saw in my band too. So. Qualche volta c'è anche una delle ragazze del punto dell'accordion, the squeeze, main squeeze orchestra in New York, che suona la sega. Non so se l'avete mai vista. C'è uno strumento particolare. È una proprio a forma di sega. Okay. È una sega armonica che si suona. Ah sì, si flette. Sfregando con l'arco, quello stesso sì. Del violoncello. Che ha un suono un po' particolare. Sì. Dicevo violoncello forse. Che sembra quasi un lamento. Un lamento, sì, esatto, hai ragione. Yeah, and a lot of the songs are inspired by the past summers that I've been spending in Italy, last summer, this summer. E molte canzoni sono ispirate dalla scorsa estate e da questa estate che ha passato in Italia. Bene, Italia porta porta creazione di pezzi praticamente. Italy for you is l'ispirazione, dall'ispirazione. Yeah. A lot of inspiration. There's so many images that are new to me, and also just with the culture, it's different than the United States, and the pace is different, and the timing is different, and it's just it affects the music really. Okay. E ha molte immagini che sono differenti e anche la cultura, e quindi molte cose la influenzano. L'Italia è caldo, in America, New York non è tanto caldo, è caldo solo in determinati periodi. Italy is more warm, New York maybe is more cold. Also, it's a different kind of sun. Actually, I feel it's sort of a. It's hard to even describe. It feels more delicate. I don't feel like my skin usually burns really quickly, but here it doesn't burn. It's just more of a relaxed weather for me. I don't know. C'è un sole che sembra più rilassato. Delicato, yes. Delicato. Rispetto a quello di New York. Rispetto a quello di New York. Infatti si dice che lì si sente la pelle a volte che brucia molto di più. Invece è molto più delicata. Sì, la pelle è molto più soffice. Scusa. And also with the light, I feel that everything looks more delicate to me. Anche la luce le sembra differente, sembra tutto più delicato. Yeah. Okay. Parliamo allora del Debutant Hour, del concerto che faranno domani qui a Padova. So we talk about the Debutant Hour and about the concert that you will make in Padova tomorrow. Yeah, we're excited. Sì. Yeah, we're very excited to play. I heard that we might get pizza. Yeah. Sono molto emozionata di suonare domani e ha sentito che forse ci sarà una pizza per loro. La pizza. Che importanza ha la pizza per gli americani? La pizza italiana rispetto alla pizza americana. Which importance has the Così facciamo una cosa di gossip for stasera. The Americans. For New Yorkers it's very important. Come si mangia la pizza? Cioè la pizza americana che differenza ha dalla pizza italiana? The American pizza how is different from the pizzas here? More delicious here maybe. Qui è molto più deliziosa. Più buona qui. It's like it came directly from God's oven. Ah, dice Susan che è come se qui venisse direttamente da Dio. Ah, perfetto. Well, molto there bene. Ok. Avete inciso qualche album? Qualche you, disco? You record and release some album? We plan to this fall when we plan to record another album. You already record one? Yeah, we have a lot of material that hasn't been recorded. Sì, hanno già registrato un album e stanno pianificando di registrarne uno in autunno. Ho capito. Hanno molto materiale da metterci dentro. E oltre alla tournée, adesso ritornate, fate qualche data qui in Italia e poi ritornate negli Stati Uniti. Avete delle date anche negli Stati Uniti adesso? Now you make some shows here in Italy, and after when you come back in USA, you have already some planned dates. For in New York? Yeah. A New York. Sì, a New York. Yeah. Assieme a Amy? Sì, con te? We have a show together at Goodbye. We have a show together at Goodbye Blue Monday. Sì, avranno una serata insieme al Goodbye Blue Monday, che è un locale di New York. Bene, ok. Siete pronte? Are you ready? To play? Oh, yeah, sure. Okay. Sure. What do you want to play? Sì. Worldview? Okay. Yeah. Okay. Che pezzo facciamo sentire adesso? Which song now? This is a song called Your Worldview Gets Me Down. Quindi, I'm sorry. Questa è una canzone che si intitola Your World View Lets Me Down. Gets Me Down, che vuol dire la tua visione del mondo mi butta a terra. Okay. or you could explain it more simply. You can say Your perspective sucks. Yeah. O molto semplicemente puoi dire che la tua prospettiva fa schifo. Ah, ok. Benissimo. Allora, Mia al violoncello, Maria alla fisarmonica e Susan alle percussioni. Fra qualche secondo partiamo. Le percussioni è quello, quel strumento è quello? Una delle percussioni è una percussione particolare. È un contenitore di plastica e di vitamine. Di vitamine, perfetto. Vitamina C. Fra pochi secondi partiamo. Blu Radio Veneto Rock. People are going to get and break and destroy. People are going to get whatever they want. Hurricanes blow through torrents from tropical sailors. No place to stay for a convent and his debutante. Your white sail curtain got lost in a sudden tornado. Your cabaret girls in their wings had a train to LA. The auctioneer sold the menagerie off for mere pebbles. There was nothing to do but to get on your knees and pray. Lord, I can't help it, I feel so unnecessary. Lord, I'm redundant and worried that one day I'll drown. Well, I'm not the Lord, you didn't ask my opinion. But I gotta say, honey, your worldview gets me down. La la la, string bean, it was a joke. The oxen is joke, we were all damned. La la la, string bean, you were a villain. I was a damsel, it was a scam. You locked the door, 1, 2, 3, 4, click, click, click, click, clack times. Certain the god of the sea was conspiring to flood out all the bad ones. All signs were pointing to hell and the straight to the devil. Just pass down the couch and start when you wanted some fun. Then one Sunday morning I ran for the next locomotive. My favorite stockings got lost in the frenzy despair. The one little token of you I could not forsake, dear. With laughing and petting your chair and clown-colored hair. You always say, Lord, I can help, but I feel so unnecessary. Lord, I'm redundant and worried that one day I'll drown. Well, I'm not the Lord, you didn't ask my opinion. But I gotta say, honey, your worldview gets me down. La la la, string bean, it was a joke. The oxen is joke, we were all damned. La la la, string bean, you were a villain. I was a damsel, it was a scam. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. What I'm cautious as I am. He's hopeful to boot, it's an easier premise today. There's no evil villain, but more than a little vaudevillian. But we laugh at the meaning of things you've got too much at stake. And I can't really explain that. Can't you explain that? Susan, that's a tough one to explain in Italian. Well, sure. I just want to say, though, yeah? That it's really nice to be here, which I can't even say in Italian. All right. And it's making me feel like I never, ever want to sing, Lord, I can help, but I feel so unnecessary. Lord, I'm redundant and worried that one day I'll drown. Well, I'm not the Lord, just to ask my opinion, but I gotta say, honey, your worldview gets me down. Oh, I gotta say, honey, your worldview gets me down. Oh, I gotta say, honey, your worldview gets me down. L'onda del rock. Ok, ok, sì, adesso parliamo. Volevo solo dire una cosa, proprio un divertissement totale questo qua, un divertimento totale, cioè un This song is like a really total fun. Ok? Total fun, yeah. Oh, oh yeah, total fun. Fun. Posso dire che c'è un po' di western qua dentro? You can say that there is a little western inside. Okay. This one. Mm. Western? Mm. Ooh, interesting. I always think of it as our like un po' così. Drinking song, like rawr, you know. Like, lei sta pensando che c'è un po' di è come una canzone da birreria, diciamo. qualcuno ha scritto un vecchio vaudeville, siete d'accordo? Yeah, yeah. Okay. Vaudeville, definitely. Ha scritto Deborah, eh? Ha scritto loro. Ok, cosa volevi dire, Claudio, dell'appuntamento? Oh, yeah, I just wanted to mention a few shows that I'm doing, especially because two of them are with the fabulous Deborah Petrina, who I'm so excited to play with. Amy voleva menzionare alcuni show che sta facendo qui in Italia, perché benissimo. Alcuni di questi sono con Deborah Petrina, con la favolosa. Favolosa Deborah Petrina, che è qui di fianco e fa la fotografa stasera. Sì. Okay. The first one is this Saturday night in Senigallia. It's called the Notte Bianca Festival. Notte Bianca in Senigallia. La prima sarà a Senigallia, sabato notte, a mezzanotte. È un posto di mare, quindi mm-hmm. molto bello. Vicino a Ancona, al palazzetto a Savoia, durante la Notte Bianca di Senigallia. Baviera, non Savoia. Sì, palazzetto Baviera. Farete uno show voi due praticamente, cantare. Te la Amy. We playing together? You play together? We're playing both of our songs together, but also with the drummer Christina Azzori. Sì, suoneranno insieme le canzoni e insieme e anche con Christina Azzori alla batteria. She's a great drummer from Bologna in the band Mumble Rumble. È una grandiosa batterista da Bologna che suona nella band Mumble Rumble. We're fortunati. E loro sono fortunati di averla. Ah, batterista. Benissimo. Quindi questa è la data di Senigallia e poi cosa avrete a qualche altra data? And then Deborah, I need you to pronounce the festival we're playing it on the July 26th. Figonza, what's it? Cantieri d'arte. Cantieri d'arte. È un altro festival che si chiama Cantieri d'arte che verrà e suoneranno quindi a Vigonza. Qui vicino praticamente. E, sì, in provincia di Padova. Provincia di Padova. Il 26 luglio, che è domenica. And that night Deborah will be playing with 3/4 of East Rodeo. Sì, Amy aprirà la serata e poi suonerà Deborah con 3/4 degli East Rodeo, un'altra famosa band di Padova. Certo, certo. And to finish August 8th at Carichi Sospesi, I think I'll play solo. Ai Carichi Sospesi, sì. Well, it's a mystery what I'll do, but something... Sì, e probabilmente suonerà in solo, però non si sa, quindi è un po' un mistero. E per l'8 agosto ai Giardini Sospesi, sì. Sì, sì, yeah. Carichi Sospesi. Carichi Sospesi, qui a Padova, famosi, sì. Benissimo, allora Amy, un altro pezzo per te. Dai. Oh, cosa hai deciso di far sentire? Se n'è andata, Deborah è sparita un secondo. I'm grabbing her, like, come back, vieni, perché because I want to do a song with Deborah singing with me. Okay. Okay. Another song together. Yeah, chicken singing photographer. So, vorrà suonare un'altra canzone con Deborah. Benissimo. This is actually a song about Maria's iPod. Well, it's a song about any iPod. But it could be an iPod on a ocean. I mean, on an island, stranded island. Una canzone a proposito dell'iPod di Maria o così. Ah, ok, a proposito dell'iPod di Maria. Benissimo, allora siamo quasi pronti, partiamo fra qualche secondo. Blu Radio Veneto Rock. I like to make love with my iPod, half in your ear, half in mine. I like to make love with my iPod, half in your ear, half in mine. What has come over me? It's all moved me. I like to make love with my iPod, half in your ear, half in mine. I like to make love with my iPod, half in your ear, half in mine. L'onda del rock. Ok, sì, l'idea mia è questa. Sono le 23, 46 e 20 secondi. Michele Tosoni in regia, Roberto Vardi ha sistemato le telecamere, Michele Maurizio Calzavara al microfono. Io però ho l'idea di far suonare tutte e quattro le ragazze adesso. Cioè, Amy più il trio. Amy sta provando, Susa, Maria e Pia. E Mia. Ok. Cosa ci fate sentire tutte e quattro assieme? Deborah coordina, fotografa. Which song we can you can play all four together? Zombies are zen. Zombies are zen. What we recorded today. But zombies are zen. Isn't it true that in the video our translator might be a zombie? Our translator may be the lead character in the video. In Italia. That you might be the lead character nel video. Sì, parliamo del video allora. Nel video di questo di questa canzone Zombies probabilmente sarò io il protagonista. Perfetto. Non è la canzone di un altro grande gruppo Zombies. No. Non c'entra niente comunque. Siete pronte? Ok? Are you ready? Tra qualche secondo partiamo. Blu Radio Veneto Rock. Thank you. Rock Wave, l'onda del rock. Ci vuole un po' di divertimento alle 23.50 quasi, stiamo quasi terminando, abbiamo ancora 10 minuti, però un po' di jam session, si chiama così. We need some fun at this hour, it's 10 minutes to midnight. Like a little jam session. Ok, jam session. Yeah, jam session. Ne facciamo un'altra? Maybe I'll bring out my accordion for this jam session. Yeah. Ok, un secondo solo. Adesso la Amy prendi la fisarmonica. Facciamo un'altra con due fisarmoniche, una batteria con le penne un po' particolari e il violoncello. Siete pronte? Cosa facciamo sentire ai nostri ascoltatori alle 23.50 e 25 secondi? What we can play to our listener at this hour by night? We can play them a blues. Blues? È tutto improvvisato, eh? Non so, sarà un blues. Facciamo un blues? Facciamo un blues? Sì, facciamo un blues, dai. Ok, un bel blues. Quello che va bene a quest'ora, il blues. Anche il mio. Ok? Partiamo? Siete pronti? Allora, fra qualche flash, partiamo. Blu Radio Veneto Rock. Girl child coming. She's gonna be a son of a gun. Gonna take all you men. Gonna make you jump and shout. And the whole world know what it's all about. You know I'm here. Everybody knows I'm here. Everybody knows I'm here. No, dovete stare pronte perché facciamo subito un altro, stiamo quasi finendo, però facciamo subito un altro perché Susa era scatenata, eri scatenata con la voce, eri scatenata. Dunque Susa alla fisarmonica, Maria alla batteria, Mia al violoncello e Amy ha la fisarmonica anche lei. Ladies and gentlemen, c'è niente da dire. Bravissima, blues, ma un blues classico. L'hanno suonato un sacco di gente, l'hanno fatto un sacco di musicisti, l'hanno fatto anche molti anni fa un gruppo rock famosissimo, Little Feat e altre cose. I also want to say thank you so much for having all of us here tonight. It's really special. The questions are so good. Vorrebbe dire grazie molte per averle avute qui questa sera in questa trasmissione. Ah, certamente. Ringraziamo anche noi della redazione. Ringraziamo di avervi avuto questa sera questo straordinario concerto. We do the radio. We say really thank you so much to stay here for this night in. Ripetiamo un'altra volta l'appuntamento di domani sera. Qua il chiosco, esattamente. Sì, l'appuntamento di domani sera al chiosco per The Debutant Hour. Ok, and their MySpace is myspace.com/debutant hour. Sì, ci diamo se volete MySpace, guardarla sì. in MySpace www.myspace.com/debutant hour, che è scritto debutante hour. Vediamo se riesco a citare anche i cognomi. Allora, Susan A. Wang, è giusto? No? Oh, Wang. Okay. Maria Sone. Maria Soneveski. Pia Pixley, va bene? Mia Big Pixley? Yeah. Ok, e Amy Kong. Beh, quella è più semplice, Amy Kong. Quella è semplicissima. Ok, non abbiamo circa 4 minuti e finiamo in bellezza. Dovete fare un bel pezzo per concludere questa cavalcata. Tutte e quattro come prima, un bel blues lungo per andare verso oltre la mezzanotte. You have to play, if you're ready, another beautiful song, a little long, to go after midnight. Vorrei dire però una cosa. Dimmi, prima di concludere. I nostri ascoltatori non possono vedere, ma Amy c'ha un occhio nero. No, perché con la telecamera lo possono vedere. Ah, giusto. Con la telecamera lo possono vedere. Perché domenica scorsa una porta, diciamo, l'ha attraversato la strada di traverso. Ah, perfetto. E quindi finito in pronto soccorso ho avuto questa esperienza di pronto soccorso patavino. Di vedere il pronto soccorso padovano. Che comunque ha funzionato molto bene, è stata molto contenta. The hospital was so amazing sì. In Italy. L'ospedale era veramente okay. Perfetto. Grazie, dottore. Grazie, dottori. Dottore. Quella è un'altra cosa. Basta. Un'altra cosa. Allora, grazie alle Debutant Hour, grazie a Demi Cole, grazie anche a Deborah che si è nascosta, che ha fatto solo la fotografa stasera. Grazie a Michele Ottosone in regia e a Roberto Baldi che ha coordinato le telecamere. La prossima settimana avremo un musicista di Milano che suonerà le tastiere. E concludete in bellezza col pezzo che volete concludere. So you can finish way in no the piece that you want. Okay. Ok, siete pronte? Yeah. Buonanotte a tutti, adesso partiamo fra qualche secondo. Blu Radio Veneto Rock. Still cast a honeysuckle spell. Love can always be. river song. They obeyed, stripped their clothes to wait, got lost down the river with the tide. Rockwave, l'onda del rock.